Prenditi il mio tempo, prenditi la voglia che non ho. Mi sento un vuoto dentro, sei un altro pezzo che se ne va. Non c'è tempo di prendere un respiro, adesso mi rigiro e non ci sei più. Questo è tempo di ridere o morire, e adesso lascia vivere. Ma ora prendi il volo, non hai più paura, splende la tua luce su di me. Sei un angelo, un angelo. Proteggimi, proteggimi qua giù, che tutto è come sembra, che tutto è come appare, non c'è moralità. Sei un angelo, rifletti la tua luce su di me, che non c'è più speranza, che non c'è più un momento. Prenditi il mio tempo, prenditi la forza che non ho. Ridammi la mia pace, adesso tu tace, non ci sei più. Sento un fuoco che brucia all'improvviso, dettagli del tuo viso dentro me. Spezzo il fiato facendoti un sorriso, è quello che ora ho di te. Ma adesso prendi il volo, non hai più paura, splende la tua luce su di me. Sei un angelo, proteggimi, proteggimi qua giù, che tutto è come sembra, che tutto è come appare, non c'è moralità. Sei un angelo, rifletti la tua luce su di me, che non c'è più speranza, che non c'è più momento di umanità.